Uyelelema, uyelelema masiya chavula tina. Helelema, oh yeah. Helelema, Zimbabwe. Helelema, oh yeah. Helelema, Zambia. Helelema, oh yeah. Helelema, Malawi. Helelema, oh yeah. Helelema, Mozambique. Helelema, oh yeah. Helelema, Angola. Helelema, oh yeah. Helelema, Botswana. Helelema, oh yeah. Helelema, Lesotho. Helelema, oh yeah. Helelema, Swaziland. Helelema, oh yeah. Helelema, South Africa. Helelema, siyajabula thina. Siyajabula thina. Siyajabula thina. Siyajabula thina. Oh Africa. Oh Africa. Oh Africa. Oh Africa. Oh Morocco. Oh Somalia. Oh Ghana. Oh Nigeria. Oh Gambia. Oh Sierra Leone. Oh Kipiti. Oh Africa. Siyajabula thina. Siyajabula thina. Siyajabula thina. Siyajabula thina. Oh Africa. Oh Africa. Oh Zimbabwe. Oh Zimbabwe. Siyajabula thina. Siyajabula thina. Siyajabula thina. Siyajabula thina. Ciao a tutte e tutti e benvenuti a Uru, stasera precisissimi alle 21.30 siamo partiti, quindi cominciamo subito con l'argomento della serata e stasera torniamo nel Nord Africa. Sì, 75esima puntata di Uru, suoni, musica e notizie dal continente africano e appunto Nord Africa, in particolar modo Algeria, in particolar modo il pre-Rai. Il Rai, diciamo, la musica algerina, il Rai, prima che il Rai diventasse, come dire, universalmente conosciuto. All'inizio degli anni 70, quindi, un nuovo gruppo di cantanti e musicisti operava in particolar modo sulla costa nord-occidentale dell'Algeria, il cui fulcro era Orano. E questi sono stati i pionieri di un suono che appunto alla fine del suo sviluppo ha raggiunto una conoscenza, uno status mondiale entro la fine del decennio, appunto degli anni 70, anche se i nomi dei primi musicisti, quelli sono considerati i primi musicisti dai, erano e sono tuttora relativamente sconosciuti fuori dall'Algeria. E questo appunto è stato un periodo cruciale e determinante per lo sviluppo del Rai, ma è stato comunque ignorato e trascurato dagli storici, diciamo, di questa musica algerina, quando addirittura non dagli stessi conoscitori, degli stessi appassionati del Rai, chiaramente fuori dal paese in cui è nato, dall'Algeria. E quindi abbiamo una serie di registrazioni, specialmente sul nastro, che provengono appunto da questo periodo di transizione in cui le influenze secolari, diciamo, e occidentali e la strumentazione moderna hanno iniziato ad assumere un ruolo importante, cioè si parte da una musica propriamente algerina, in cui appunto le nuove strumentazioni assumono un ruolo importante e quindi anche un certo cambiamento, diciamo, dal punto di vista sonoro e anche da un punto di vista dei testi. Questo perché appunto siamo in un periodo antecedente al diffondersi del fondamentalismo islamico, ma successivamente, proprio all'inizio, a metà degli anni 70, il governo algerino, proprio per l'avanzata di questo fondamentalismo, tentò addirittura di vietare il rei. Tutto ciò, diciamo, dall'inizio degli anni 70, dalla metà, scusate, degli anni 70 fino alla fine degli anni, sempre degli anni 70, inizio degli anni 80. Questo perché, appunto, oltre a includere nella loro strumentazione strumenti, appunto, non propriamente strumenti e suoni, quindi non propriamente derivanti o comunque innestati nella tradizione musicale algerina, anche i testi erano cambiati, no? E quindi si parlava anche di matrimoni, come dire, coppie, ecco, fuori dal matrimonio, l'uso dell'alcol e tutto ciò associato anche con danze pubbliche, ma seppur limitato proprio appunto da questo rifondo del fondamentalismo in patria, lei ha prosperato, diciamo, in Francia e anche in patria, in questo caso attraverso il commercio, il mercato nero dei nastri. E c'è da tenere presente anche che non solo è stato tentato di vietare la musica, ma anche diciamo di sopprimere, proprio nel senso letterale del termine, anche alcuni degli autori rai. Per esempio Cheb Hasni è stato persino assassinato, questo nel 1994, per aver permesso a delle ragazze di baciarlo su una guancia durante un concerto televisivo. E a causa appunto della censura e della diffusione della musica controllata dal governo, questo genere musicale era stato costretto alla clandestinità sostanzialmente, ma lentamente ha costruito un piccolo seguito, una scena musicale intorno ai cabaret di Orano. E in questo periodo ha visto la nascita di artisti come il gruppo El Azhar, che vi faremo ascoltare, sì, che traducendolo in italiano significa i fiori, e Massoud Belemoui, che possono essere considerati i padri del sound moderno del rei. Il gruppo di Belemoui, tra l'altro l'orchestra Belemoui, ha riscritto un'eredità di secoli usando strumenti moderni, soprattutto la tromba, e è diventata la spina dorsale, ecco, il maggior rappresentante di questo genere pro-rei, che viene a volte chiamato Warani. E appunto vi facciamo ascoltare un pezzo del gruppo El Azhar che si intitola Tuedar Hahal. We'll be right back. حضرت ما قالوا لي وسكت ما هنيته. وانا بغيت الزرقاء بالعز واصفرا شوطنوا بينتنا ما خافوا الله. تودري عقلي يا حبيبي ricordo che siete all'ascolto di Radio Wombat e quindi avete due possibilità per ascoltarla in streaming su wombat.noblogs.org oppure in AM al 1359. E, sempre dal sito wombat.noblogs.org potete andare al menu podcast e scaricare tutte le trasmissioni passate del sito, quindi tutti i podcast, e potete anche controllare il palinsesto con gli orari invece per ascoltare in diretta le trasmissioni. Il palinsesto sta cambiando un po', quindi guardatelo un po' che ci sono stati cambiamenti e nuove trasmissioni entrate. Vi ricordo anche che Wombat ha un profilo Twitter che è Radio Wombat FI, e la mail per comunicare con noi è postawombat@insiberia.net. E invece Uru ha un profilo Twitter, potete trovarlo a Uru_RW. le repliche di Uru le potete ascoltare la domenica alle 23 oppure il lunedì mattina alle 8:30. Eh sì, il primo pezzo che abbiamo fatto ascoltare era il gruppo della Zar, che insieme appunto a Mesud Belmu possono essere tranquillamente considerati, come abbiamo detto precedentemente, i padri del sound moderno del Rai. E l'orchestra Belmu in particolare ha riscritto un'eredità di secoli usando strumenti moderni, soprattutto la tromba. La tromba l'abbiamo sentita come uno strumento preponderante, fondante anche del gruppo El Azhar, che appunto questa tromba divenne negli anni 70 la spina dorsale del genere Guarani. Tenete presente appunto che Guarani è una traslitterazione, diciamo, di Orano, proprio perché è un genere ben identificato con la città d'Orano. E appunto venivano reinterpretate le melodie della gasba, che era un genere tradizionale algerino, con questa tromba. E Belmu si affiancava appunto con cantanti come per esempio Boutaïba Sghir, che vi faremo ascoltare successivamente, e Sheikh Ben Fissa, che portavano avanti la tradizione lirica dei loro antenati, diciamo così, cantando su preoccupazioni e problemi quotidiani, così come su storie d'amore, l'alcol e via dicendo. E verso la fine degli anni 70 un altro cantante, Sheb Zargui, portò un nuovo ingrediente, una chitarra elettrica con pedale wah-wah. La fortuna è stata che alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, quando questo genere cominciò a uscire, ecco, diciamo, dalla scena ristretta dei cabaret di Orano, ci fu lo sviluppo della pressatura del vinile in Algeria, e appunto questa tecnica ha permesso a molti piccoli artisti, in particolar modo quelli della scena Warani, cioè quindi di Orano, di registrare e pubblicare singoli, 45 giri che documentano appunto il loro repertorio e che hanno permesso di conoscere, e da cui appunto tutti praticamente i pezzi che vi facciamo ascoltare oggi vengono tutti, ecco, sono ridigitalizzazioni di questi 45 giri di inizio anni 70. E Belmu appunto è una figura diciamo quasi leggendaria, ecco, proveniva dalla città di Ain Temunshet, una settantina di chilometri a sud di Orano, e la particolarità è che a metà degli anni 60 un circo passò da Ain Temunshet, la città natale in cui ancora viveva il giovane Mesud Belmu, e lo reclutò per suonare la tromba nell'orchestra del circo. Ha fatto questo tour con questo circo per 6 mesi, lavorando con musicisti esperti, perché erano tutti appartenenti a questa orchestra che girava con il circo. E dopo dopo finì il tour, Belmu tornò a casa e continuò a esercitarsi con queste tecniche particolari, a suonare per esempio i quarti di suono sulla tromba, che era un artificio musicale necessario per eseguire tramite la tromba la musica locale. E quindi ricrea questo suono della gasba, questo antico genere musicale algerino, arricchendolo con con alcuni pasodoble flamenco spagnoli. E qui va ricordato anche che nella zona nord dell'Algeria, quella che dà sul mar Mediterraneo, gli abitanti di Orano e in generale tutta la zona, quelli di origine spagnola, erano ancora di più di quelli di d'origine francese. E quindi appunto Belmu ha inserito nella sua musica questi generi, questi pezzi, questi arricchimenti, diciamo, di musica spagnola, e iniziò a collaborare con diversi altri giovani musicisti, convinti appunto di portare avanti questo nuovo genere musicale. E uno di questi giovani musicisti con cui appunto ha collaborato Belmu è Ben Fiss, e di loro due, Belmu e Ben Fiss, vi facciamo ascoltare Li Mandao. ما عندكم الوطن والزين يشوفينا غير من البعيد مالي ما عندك غلطو وكلامنا مع البنات يجيهم صماطة وما عندهم بينا حتى مفيد هم اللطو راح عايش في حطة كل يوم يشوف طبع جديد اللي ما عنده لوط مسكين باقي غير شيء طيح بس الزهو ما عنده وين يزيد والزعاف ابني عمي شكون اللي يبغي الزعاف الزعاف مدوى غير النشطة ودشي كلش مبني على البنات والحديد Oh, E domani 30 marzo e domenica 31 saranno due giorni caratterizzati da mobilitazioni, manifestazioni e cortei, e Radio Wombat seguirà tutti e due i giorni, con inizio alle 14.30, in diretta queste mobilitazioni. Ricordiamo in particolare le mobilitazioni, i cortei a Firenze, domani 30 marzo, corteo contro l'aeroporto, contro il tentativo di costruire un nuovo aeroporto, un mega aeroporto a Firenze, con partenza dalla manifestazione dal Polo Scientifico alle 14.30, mentre invece domenica prossima alle 15, con concentramento in Piazza Leopoldo, verrà ricordato Urso. E appunto, oltre a questi, in particolar modo domani 30 marzo, il corteo a Torino, in risposta agli sgombri da parte dell'amministrazione comunale torinese, e l'iniziativa a Verona contro il Congresso Mondiale della Famiglia. E appunto Radio Wombat seguirà in diretta tutte queste iniziative, con inizio alle 14.30. Sì, diamo una notizia adesso. Un rapporto della ONG ambientalista britannica Environmental Investigation Agency ha rivelato come il legname africano tagliato illegalmente venga trasformato in prodotti che vengono venduti come eco-friendly, principalmente negli Stati Uniti, ma non solo, ingannando in questo modo milioni di consumatori. Durante un'indagine sotto copertura durata 4 anni, infatti, questa ONG ha scoperto il funzionamento di uno dei conglomerati di legname più influenti del continente africano. Parliamo del Deja Group, controllato dal magnate cinese Xu Gongde. L'inchiesta rivela una moltitudine di crimini commessi nelle foreste pluviali del bacino del fiume Congo e la rete di funzionari corrotti che consentono le attività criminali. Secondo i risultati presentati da questa ONG, il gruppo Deja, che controlla oltre 1,5 milioni di ettari di foresta in Gabon e Repubblica del Congo, avrebbe ottenuto vaste aree di foresta usando corruzione, avrebbe sovrasfruttato le concessioni, esportato tronchi per un valore di 80 milioni di dollari in violazione della legge nazionale di questi paesi per un periodo di 4 anni, e avrebbe inoltre eluso le tasse per diversi milioni di dollari in ogni anno di attività. Per far funzionare questo modello di business corrotto e assicurarsi l'impunità, questo gruppo farebbe affidamento su tangenti versate a funzionari governativi di alti livelli e a diverse connessioni politiche ben posizionate, che in cambio avrebbero ricevuto un grosso finanziamento per la campagna elettorale da parte appunto di questa multinazionale Deja. Uno dei direttori di una compagnia affiliata del Deja Group nella Repubblica del Congo ha dichiarato agli investigatori dell'ONG che una valigia piena di denaro inviata all'ex ministro congolese dell'economia forestale avrebbe eliminato ogni ostacolo nelle concessioni forestali. Tra l'altro, tra le cose più sorprendenti dello studio che hanno prodotto, per esempio, un cliente del Deja Group negli Stati Uniti, l'Evergreen Hardwood Inc., ha contribuito a inserire questo legname illegale nella catena appunto di approvvigionamento statunitense, e il rappresentante di questa ditta, Evergreen, ha dichiarato agli investigatori sempre di questa ONG: non sono preoccupato che tu stia rubando da un parco nazionale, non mi interessa, ho solo bisogno di avere una documentazione in regola nel caso qualcheduno voglia controllare. E il gruppo Deja non ha esportato solo negli Stati Uniti, ma anche in Francia, Belgio, Italia, Spagna, Grecia, e quindi in tanti posti questo legname illegale, ripetiamo. Il Gabon e la Repubblica del Congo sono due dei maggiori produttori di legname nel continente africano. Insieme rappresentano circa il 60% dell'area del bacino del Congo destinata al disboscamento ed esportano circa l'80% di tutto il legname prodotto nel continente. Il disboscamento illegale e insostenibile ha profondi impatti sull'habitat che sono indispensabili per la sopravvivenza della specie in via di estinzione, come per esempio gli elefanti delle foreste africane e le scimmie antropomorfe, nonché degli abitanti che vengono illegalmente cacciati dalle loro terre. E come dicevamo prima, l'importanza di Belle Mu in questa, nella nascita di lei non è soltanto derivante dalla sua musica, dai suoi pezzi, ma anche dalle sue collaborazioni con altri giovani cantanti dell'area di Orano. E uno appunto è stato Boutevas Gir, anche lui nato vicinissimo a Orano, un villaggetto a Intemunchet, che a sua volta è un paese, una città abbastanza grande vicino a Orano, e appunto lui è nato in questo villaggio a 7 km da Temuscette, e ha iniziato fin da giovanissimo a collaborare con Belle Mu. E anche lui è considerato un altro personaggio cruciale per lo sviluppo di questo nuovo suono. Vi facciamo ascoltare Daya Olube, Boutevas Gir. بيدك الزينة نخسر مالي ونزيد الدينة ما نفرطش بيدك الزينة ياك العذراء من بالعباس دايها ولا باسا ياك العذراء من سوق هراس دايها ولا باسا الشمه اخسر مالي على التمام وديها يا مرخوفه الحسامه اخسر مالي على التمام وديها ظريفه الحمام اخسر مالي على التمام وديها زينه الغرامه وديها الكاس مع الكاس عديها ولا باس وديها الكاس مع الكاس عديها ولا باس ادايها ولا باسا شفتها كتر ما ننساها غير على القبر والفتني ولفتها كتر ما ننساها غير على القبر اللي محرمة من عيني النعاس جايها ولا باس لو كان ينوض عليها الرصاص جايها ولا باس ولو كان ينوض عليها الرصاص جايها ولا باس ولو كان إسرائيل يسراق جايها ولا باس اللي كتلتني بالخزرة جايها ولا باس ما يقبل نشوف له طالب معدل لو كان بها ما يقبل نشوف له طالب معدل وندير ندير كتاب نحاس أدايها ولا باس وندير كتاب نحاس بالعقاقر أدايها ولا باس نشرب البيرة والكمية بسباس أدايها ولا باس ولو كان ندخل عليها الحباس جايها هاولة باسة إسرائيل إسراق جايها هاولة باسة اللي ملكتني بالخزرة جايها هاولة باسة لو كان إسرائيل إسراق جايها هاولة باسة خزرة أدايها هولة باسة Il 22 marzo 2019 sarà ricordato come una data storica dai militanti delle associazioni LGBT keniane. Questo perché un tribunale ha obbligato il Consiglio di coordinamento delle ONG, che è una struttura statale, a registrare un'associazione LGBT, appunto. Questa ultima, infatti, questa associazione si era rivolta alla magistratura perché era stata rifiutata la registrazione con la giustificazione che il codice penale keniano criminalizza le relazioni tra gay e tra lesbiche. Nella sentenza i giudici hanno affermato che non si devono negare i diritti fondamentali degli uomini e delle donne per il modo in cui scelgono di vivere le loro vite. Secondo i giudici, il Kenya è una società che sta crescendo, quindi la moralità e la religione non devono più contare né determinare se un'associazione debba essere registrata o meno. Tra l'altro, le stesse associazioni e comunità stanno attendendo con impazienza il 24 maggio, perché il 24 maggio è prevista una sentenza che speriamo che determini l'abolizione del reato di omosessualità. E proprio queste comunità e associazioni hanno già previsto diverse manifestazioni in vista di questa data. Sheikh Arimitti, un altro personaggio, questa è una donna appunto, che è fondamentale nella nascita e nell'espansione della musica algerina pensate, lei era nata l'8 maggio 1923 e ha iniziato a cantare fin da piccolissima e ha cantato fino alla fine, tant'è che all'inizio degli anni 2000 ha inciso un pezzo, tra l'altro, insieme a Flea, Red Hot Chili Peppers. E appunto lei era nata in questo piccolo villaggio l'Algeria occidentale nel 1923 ha iniziato la propria carriera all'età di 15 anni, anche lei aggregandosi a una troupe di musicisti viaggiatori, imparando a cantare e ballare. E poi si è trasferita in una città, nella città di Realizzana, e ha iniziato a scrivere le sue canzoni, che in particolare descrivevano la dura vita sopportata dal proletariato algerino. Tradizionalmente queste canzoni sono sempre state cantate, ma venivano cantate privatamente, cioè le donne algerine le cantavano in particolar modo durante le celebrazioni del matrimonio e comunque all'interno, diciamo, della propria cerchia familiare o immediatamente adiacente, perché appunto erano considerate inadatte ad essere ascoltate in pubblico. Sheikha è stata importantissima a questo punto di vista, perché è stata una tra i primi a cantarla in pubblico e soprattutto la prima donna a cantarla in pubblico, usando una miscela di gergo e patois. E alla fine, in tutta la sua vita, ha composto più di 200 canzoni e quindi appunto ha raggiunto una fama dovuta più che altro non soltanto alla musica in sé, ma anche proprio da come si è posta rispetto alla società algerina. Ha registrato un primo disco nel 50, anzi sul nastro, nel 52, e poi appunto ha continuato sempre a cantare. E di lei vi facciamo ascoltare uno dei pezzi più conosciuti, si intitola Gündüzü Mama. فرحوا بالحمل وخصلة الرجال فرحوا بالحمل وخصلة الرجال صبحوا معاهم الحال ولاد العربية ياي ياي ياي ياي مامير دو غاي شيخ الريميتي والخصاصبة عبد الملك ولد العبادي والشيخ المحفوظ المغناوي خاطر الشيخ الاخضر الوجدي يحيى الهند القديم Oh, Sempre all'ascolto di Udo, suoni, musica e notizie dal continente africano. E appunto, a proposito di notizie, abbiamo citato spesso durante in questa trasmissione un blog, un sito importante, diremmo anche fondamentale, ecco, diciamo, per comprendere l'Africa, per comprendere dal punto di vista degli africani, per comprenderla da un punto di vista che vada oltre, più in là di quello delle organizzazioni non governative. Il punto di sito è Africa is a Country, e ultimamente è apparso un altro articolo rispetto alla commissione, la missione per la verità e la conciliazione Sudafrica, quella appunto presieduta dall'arcivescovo Desmond Tutu. E appunto Africa is a Country sostiene che gli osservatori internazionali hanno applaudito la transizione pacifica, dove pacifica è segnalato tra virgolette, alla democrazia in Sudafrica, fatta attraverso appunto questa commissione per la verità e la conciliazione, trascurando il fatto che 14.000 sudafricani sono morti tra il 1990 e il 1994, quindi nel periodo immediatamente antecedente alla fine dell'apartheid, o comunque durante la transizione, di violenza politica, la maggior parte delle quali si è verificata nel Gauteng e nel KwaZulu-Natal tra i sostenitori dell'African National Congress e il partito Inkatha, sponsorizzato dall'apartheid e per di più aiutato da una unità segreta di polizia. Tra l'altro, da questo punto di vista, innumerevoli sono gli episodi, o meglio le nefandezze di questo corpo segreto della polizia sudafricana. Come risposta a questo, appunto, è stata emanata una legge che avrebbe concesso a più di 1.000 torturatori e assassini l'amnistia per la violazione dei diritti umani. E la Commissione sudafricana per la verità e la riconciliazione ha preso il via alla fine del 95. Il suo unico mandato legale, ai sensi della Costituzione del 93, era fornire un meccanismo per concedere l'amnistia. Ma le sue udienze erano preghiere per la pace, canti per la liberazione, danze, e con le telecamere che giravano, insomma. Alle audizioni hanno partecipato studiosi provenienti da tutto il mondo, ma soprattutto dagli Stati Uniti. Ed è rimasta una storia irrisolta di oppressione razziale. Filosofi, studiosi si sono riuniti per prendere parte al miracolo africano, ma poi si sono avventurati al di fuori delle udienze di questa commissione per indagare sugli effetti sulla vita delle persone nelle township urbane che sono state colpite, quelle più colpite maggiormente dalla violenza. Ed era lì che stava che è successa, che è accaduta la storia, in cui ordinari sudafricani stavano cercando di rimettere insieme le loro vite dopo il vortice di violenza dell'era dell'apartheid, e solo una manciata di questi studiosi sono andati a portare avanti ricerche o tentativi di risolvere queste situazioni nelle township in concomitanza con questo teatro, diciamo, questa commissione per la verità e la giustizia. E in realtà questa missione non ha potuto affrontare la violenza strutturale della povertà e della esclusione razziale legata dall'apartheid, legata all'apartheid. Le riparazioni finanziarie per le vittime sono state irrisorie e gravemente in ritardo, dato che gli ex agenti di polizia e sicurezza hanno ricevuto l'amnistia e sostanzialmente sono stati, nel momento in cui è stata sciolte queste organizzazioni segrete all'interno degli apparati repressivi, hanno beneficiato di tutti i soldi, di tutti i denari che, come in qualsiasi altra situazione in cui viene chiusa un'azienda ben remunerativa e i dirigenti vengono piagati fuori di partito. E i commissari si aspettavano che la riconciliazione avvenisse esclusivamente attraverso le testimonianze delle vittime e non ha portato le vittime e gli autori dei reati insieme. Inoltre non c'è stato un supporto per problemi psicologici derivanti da continue carcerazioni, torture subite da queste persone, da quelli che hanno subito un profondo trauma psicologico e appunto una gravi forme del prescrive. Il continuo rifiuto da parte dello Stato di giustizia apartheid dell'accertamento di questi problemi che molta parte della popolazione nera sudafricana ha avuto e sta ancora avendo, ha avuto importanti conseguenze a livello sociale, e non si è stabilito il principio secondo cui nessuno era al di sopra della legge. Inoltre molte caratteristiche chiave del dominio autoritario dell'apartheid non sono state perseguite in questi tribunali per motivi di diritti umani. La configurazione dei diritti umani come compatibili con l'impunità ha avuto una serie di conseguenze negative, tra l'altro in questi ultimi vent'anni, ha minato proprio il principio costituzionale. Molte disposizioni successive hanno incluso il permesso delle rivendicazioni civili da parte delle vittime contro individui e società, comprese quelle multinazionali che hanno beneficiato dell'apartheid, ma questo appunto successivamente, dopo che la Commissione per la Verità e la Giustizia ha terminato il suo mandato, senza appunto arrivare a queste a questo passaggio. Un passaggio si è avuto soltanto proprio perché organizzazioni civili, organizzazioni di base, hanno continuato a portare avanti la loro richiesta di giustizia. E il prossimo pezzo che ascoltiamo è di Sheb Zerghoui. Anche lui un giovane, uno dei giovani di cui parlavamo prima, che ha suonato insieme a Bellemu, e a lui si deve una cosa molto importante che ha cambiato anche il proto-Rai che poi diventerà Rai, e cioè l'introduzione della chitarra elettrica. Quindi di Sheb Zerghoui ci ascoltiamo Ana Tellali. Oi. Thank you. ambientale pesante in Guinea. La costruzione di una diga dovrebbe essere costruita vicino alle cascate Cucuzamba da una società cinese. Il progetto a 294.000 megawatt è stato approvato appunto questa settimana un accordo tra rappresentanti del governo di Conakry e responsabili della Sinohydro, questo appunto gigante dell'energia idroelettrica. E la centrale rischia di inondare la nuova riserva del Moyemba Fing National Park, e tra l'altro compromette la vita dei numerosi scimpanzé che appunto lì vi abitano, oltre a fatto ancora più importante costringere 8.700 persone a lasciare le proprie case. Negli ultimi mesi appelli contro la costruzione della diga sono stati lanciati a più parti e sono già oltre 140.000 le firme raccolte da una petizione che chiede di fermare questo scempio naturale, ma anche che appunto comprometterà potrebbe compromettere la vita delle queste 8.700 persone. Il parco naturale di Moyen-Bafing, 6.400 km quadrati nel nord del paese, era stato creato appunto l'anno scorso con l'obiettivo, tra l'altro, di proteggere circa 4.000 esemplari di scimpanzé. Va tenuto presente appunto l'importanza appunto del calcare, diciamo, sottolineare appunto questo problema relativo alla possibile scomparsa di questi scimpanzé, perché va tenuto presente la popolazione è diminuita di oltre l'80% negli ultimi 20 anni, tant'è che nel settembre 2016 primate è stato classificato come specie gravemente a rischio dalla International Union of Nature Conservation. Sì, e vi facciamo ascoltare il prossimo pezzo, che è di Belle Mu insieme a Ben Fissà, il titolo è Lala. Oh, e a sottolineare l'importanza di questo genere musicale nella società algerina. Sono state anche le vicende, le ultime vicende appunto in Algeria, le manifestazioni di centinaia di migliaia di persone, soprattutto giovani, contro il quinto mandato di Bouteflika, presidente algerino. I suoni, i canti, soprattutto i testi Rai riattualizzati insieme ai cuori da stadio, anch'essi riattualizzati, perché tra l'altro una componente importante di queste manifestazioni erano appunto i tifosi, le squadre di calcio algerine sono state la colonna sonora di queste manifestazioni, appunto, che si opponevano al quinto mandato del presidente Bouteflika, si opponevano perché appunto pare proprio che Bouteflika abbia rinunciato al proprio quinto mandato, nonostante che appunto si cerchi comunque di rimettere in piedi comunque la clica e il consorzio, diciamo, di soggetti politici che gli stava intorno, ma che comunque la società algerina non intende assolutamente permettere, che attualmente le manifestazioni continuano e vanno, le richieste sono al di là del semplice no al quinto mandato a Bouteflika, ma per una maggior giustizia sociale. E finisce qui questa trasmissione, vi aspettiamo venerdì prossimo sempre alla stessa ora. Vi ricordo che se avete perso una parte di questa trasmissione potete riascoltarla in replica il domenica alle 23 o il lunedì mattina alle 8:30, e come sempre potete scaricare dal menu podcast del sito wombat.blogs.org tutte le puntate precedenti. Ciao a tutte e tutti, alla prossima. Ciao ciao. Siya jabulatina, helele siya jabulatina, siya jabulatina, helele siya jabulatina, helele mama, helele mama, wo Ethiopia, helele mama, helele mama, wo Uganda, helele mama, helele mama, wo Kenya, helele mama, helele mama, wo Tanzania, helele mama, helele mama, wo Ghana, helele mama, helele mama, wo Nigeria, helele mama, helele mama, siya jabulatina, helele siya jabulatina. Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina,